Ecco in breve tutto ciò che c'è da sapere sulla Plaza del Mercado Chico ad Avila. Sai, questa piazza non è solo un semplice reperto storico all'interno di una città fortificata spagnola, ma è il vero e proprio cuore pulsante, insomma, il centro politico, commerciale e sociale che anima la città letteralmente dall'XI secolo. Primo, parliamo della sua evoluzione. Immagina un grande spazio rettangolare, incorniciato su tre lati da portici elegantissimi. Nata nel Medioevo con dei banalissimi pilastri di legno e mattoni, beh, si è trasformata. È passata alla pietra nel 1518, fino ad arrivare a quel maestoso stile neoclassico dell'Ottocento, incastonata perfettamente tra il municipio da un lato e la chiesa di San Giovan Bautista dall'altro. Secondo, questa piazza ha vissuto una vera e propria crisi di identità col nome, roba da non crederci, mentre la gente del posto l'ha sempre, e dico sempre, chiamata Mercado Chico, i politici l'hanno continuamente ribattezzata. Piazza della Costituzione, della Religione e del Re, Piazza Reale e perfino Piazza della Vittoria. Pensa che solo nel 2001 ha finalmente ripreso ufficialmente il suo nome originale. Infine, devi assolutamente sapere che questo è un patrimonio vivo, mica un museo impolverato. È uno spazio vibrante, dove ancora oggi si fa il tradizionale mercato del venerdì mattina, che vende formaggi e prodotti locali freschi praticamente da secoli. E poi ti viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Seduto nei caffè sotto i portici, puoi gustarti le famosissime yemas de Avila, quei dolcetti pazzeschi a base di tuorlo d'uovo. È la prova perfetta che i migliori spazi urbani non diventano mai pezzi da museo, ma continuano ad adattarsi per far scorrere la vita della città.